percorso che inizia qualche settimana fa per quanto riguarda l'emozione che vorrei portare sul progetto di Archivio Z. Ricordo la presentazione all'Istituto Ortopedico Rizzoli, adiacente a San Michele in Bosco, posto magico, posto di una bellezza unica e speciale per quanto riguarda la nostra città. La difficoltà per quanto riguarda il raggiungere in conferenza stampa di presentazione e la gentilezza di un ufficio stampa che saluto e ringrazio, che ha messo ospiti a proprio agio per assistere a questa presentazione. Per quanto riguarda poi lo svolgimento di queste prime due parti, vi assicuro che in quanto spettatore la mia era una preoccupazione completamente, come al solito, esagerata. Non certo scomodo, anzi tutt'altro. La bellezza del luogo, la magicità della storia, l'importanza di diversi contenuti riportati per quanto riguarda la Montagna Incantata, che ha un'attenzione per quello che è stato un passato, per quella che è una riflessione sul presente e uno sguardo sul futuro. Vi ho detto che diverse sono le emozioni, diverse sono le motivazioni che portano poi uno spettatore curioso, attento, oltre che a seguire, farsi coinvolgere totalmente. Per quanto riguarda quello che è stato, beh, uno spettacolo, un lavoro, e che lavoro è per Archivio Z. Ringrazio Enrica San Giovanni, ringrazio Gianluca Guidotti, ma non solo, per una partecipazione estesa di grande talento e coinvolgimento totale. Si parla di storia, si parla di cura, si parla di attenzione per quello che invece è momentaneamente così lasciato, trascurato, che diventa protagonista. Ma questi sono solo pochi aspetti, perché vi è tanto di più in un'eterogenea rappresentazione dove, in maniera io ho definito olistica, cioè totale, vi è aspetto di comprensione, a volte anche così, che mette alla prova, ma dove vi sentirete smarriti avete poi motivo di ricercare nell'attenzione, nella curiosità che viene portata da questo lavoro. Ora l'ultima parte viene portata al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Nell'anno del centenario della pubblicazione del romanzo per quanto riguarda la Montagna Incantata di Thomas Mann, venerdì 26, sabato 27, domenica 28 luglio e tutti i giorni da venerdì 2 a domenica 18 agosto, lo spettacolo che porterà a conclusione questa trilogia. Archivio Z, io li seguo, ne sono un, per così dire, ammiratore. Ma per quanto riguarda tutti gli spettacoli che ho seguito e lasciano sempre le caratteristiche con cui ho dato presentazione, ho fatto un paragone sportivo. Ho detto questa probabilmente è la finale più particolare, no? Come tutti gli anelli dei Boston Celtics, però quello del 1986 resta qualcosa di unico e speciale. Non solo, certo, però quello dell'86, insomma, è qualcosina in più. Non è che la stessa sensazione ci sia anche nell'assistere alla Montagna Incantata, ma soprattutto nell'immenso lavoro che è stato svolto per quanto riguarda la Montagna Incantata. Allora, diciamo che essendo il terzo capitolo di un trittico, di una sorta di trilogia, arriva anche colpo finale, no? Questo sottotitolo che ha La Montagna Incantata terza parte è Fino al colpo di tuono, quindi in noi c'è questa necessità di chiudere un progetto triennale che in realtà ci precipita in un altrove, in un altro tempo, in un altro stato di cose, perché il protagonista Hans Castorp, dopo anni di reclusione, autoreclusione ma anche reclusione all'interno del sanatorio di Davos in Svizzera, decide di andare a combattere e quindi terminerà il romanzo con questo addio a Castorp che si incammina nelle trincee europee. Questo finale così cupo, apparentemente così anche tragico, ci in realtà è stato forse la leva che ci ha fatto decidere di fare questo spettacolo ormai 4 anni fa. E quindi sì, aspettavamo questo momento come un gran finale. Quindi sì, ci teniamo moltissimo, è uno spettacolo che abbiamo provato con grande cura e siamo molto contenti domani l'altro di debuttare e di mostrarlo al pubblico. Enrica, volevo chiedere invece a te, a tale proposito, visto che siamo anche provati in questo periodo della stagione, un lavorone, eh? Sì, un grande lavoro che parte da un lavoro di scrittura enorme, perché comunque il magma pubblicato da Mann è comunque un romanzo che ha anche tante sfilacciature, meraviglioso. Io sono totalmente stregata dal mago. Sono veramente tra le sue grinfie totalmente, letterariamente e intellettualmente, quindi sarà molto faticoso liberarmi della sua scrittura, perché avendo fatto questo lavoro di drammaturgia così capillare, cioè noi siamo andati a riprendere proprio anche le singole frasi e riposizionandole dentro lo spettacolo per fare in modo che nessuna delle parti interessanti che portavano avanti poi il discorso che noi volevamo che portasse avanti si perdesse, e quindi veramente ce lo siamo riletto tante e tante volte, ripercorso, riscorso, e quest'anno raggiungiamo veramente dei secondo me un livello anche di concentrazione notevolissimo, per cui lo spettacolo è leggermente più breve degli altri, che durano, come hai potuto vedere, quasi 2 ore se non di più. Quest'anno è leggermente più breve, nel senso che 1 ora e mezza dovrebbe essere la durata definitiva, e insomma quindi è un bel condensato che ci precipita appunto verso l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Basta il tempo che abbiamo per dare presentazione, perché adoperando un termine che non è adatto, però da subito, avendo letto La montagna è incantata, ho immaginato non solo un lavoro trasposto e in maniera assolutamente nuovamente originale, prendendo spin-off da diversi aspetti, ma vi è molto di più anche nello sbalzo cronologico per i tempi, in questo caso la Prima Guerra Mondiale, la chiusura al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Quindi vi è questa trasposizione anche nel tempo, ma con delle attinenze importanti di cui parleremo nella seconda parte di conversazione. Intanto grazie per la disponibilità di Enrica e Gianluca di Archivio Z, e ricordo che la partecipazione che del pubblico sarà ovviamente rapito da una a sua volta maniera di coinvolgersi fra di loro, tra gli artisti impegnati su questo speciale palcoscenico. Questo per quanto riguarda le due parti. Ovviamente devo ancora vedere la terza parte, ne ho grandissima curiosità e grande passione. Belle le scenografie in intersezione con il luogo, belli i costumi, belle le citazioni culturali, letterarie, artistiche che vi sono costanti. Anche questi sono motivi poi di andare nuovamente a ricercare magari qualcosa che ci è sfuggito e che andiamo a ricercare e ci accorgiamo d'avere tanti gli spunti. Questo protagonista che va ad Abos in Svizzera viene così, si trova alla visita del cugino che è all'interno di un sanatorio. A sua volta lui stesso, e qui è bello anche il gioco, se è lui che si concede oppure se viene completamente avvolto dalla situazione per quanto riguarda le cure di attentissimi medici e anche attenti personaggi di contorno. Impegnato in questo viaggio, si ritrova a Davos, arriva in questo sanatorio, ritrova il cugino e da lì in avanti, beh, dovrà durare poco la visita, no? Non è esattamente così. E da qui si dipana un percorso con questi personaggi che arrivano in sequenza a portare diverse specificità, oltre che di lavoro teatrale, anche culturale. Enrica ha voluto dare attenzione sulla durata, eh? Ecco, per me quella non è un'attenzione, anzi, tutt'altro. Ti posso assicurare che ne continui a parlare dopo, perché da tanti spunti di riflessione, di approfondimento, che se ne continua a parlare. Dove non ci si riconosce, si va ad esplorare. Dove ci si riconosce si ha motivo di dialogo con se stessi o con gli altri. Dove ci sono motivi invece di, così, non di discrepanza, ma di smarrimento, non è smarrimento, perché questo spettacolo ti porta la voglia di ricercare dove ti sei smarrito. È uno dei lavori, secondo me, assolutamente più belli, più riusciti, più coinvolgenti, e non perderò mai occasione per poterlo ribadire. In questo, grazie, ma grazie, grazie a voi, perché vi ho visti veramente provati, cioè veramente immersi in una situazione così di interpretazione viva, proprio totale. Olistica, come ho sul momento adottato questo termine. Diamo alcune indicazioni per quanto riguarda anche la struttura per raggiungere gli orari per gli spettacoli. Allora, gli spettacoli inizieranno il 26 luglio, facciamo 26, 27, 28 luglio, poi una piccola pausa, ricominciamo il 2 agosto fino al 18, tutti i giorni, fino al 18 agosto. Gli spettacoli iniziano sempre alle 18. Sì, diciamo che il cimitero è facilmente raggiungibile con l'autostrada, basta uscire a Roncobilaccio. Noi consigliamo la panoramica per chi viene da Bologna, e invece la direttissima uscita Firenzuola, Mugello, per chi viene da Firenze. È un luogo che ormai noi frequentiamo da più di 20 anni, e ogni anno ci rendiamo conto che questo ritrovarsi al tramonto lì d'estate diventa un rito civile, un rito culturale condiviso che richiama sempre più pubblico. Quindi siamo molto contenti anche quest'anno di poter fare le nostre 20 repliche, saranno 20 repliche, e vi aspettiamo. Si tratta di prenotare, la prenotazione è obbligatoria perché lo spettacolo è itinerante, a tappe, ci si sposta all'interno del cimitero. È molto semplice, basta andare sul sito www.archivioz.eu e si può prenotare direttamente online. Bene, io ti ringrazio, anzi vi ringrazio tantissimo per queste anticipazioni e vi auguro una buona giornata. Io, siccome tu hai citato una grande finalissima all'inizio, aggiungo soltanto una postilla dicendo che ci sarà in realtà una grande finalissima il 22 e 23 marzo 2025 all'Arena del Sole. Faremo tutte e tre le parti di fila in una grande maratona che si svolgerà appunto sabato 22 la prima maratona, sabato domenica 23 la seconda maratona. Si potranno vedere nell'arco di 7 ore tutto lo spettacolo come se fosse un'unica grande opera, quindi sarà un gran finale, vi aspettiamo all'Arena del Sole e i biglietti saranno in vendita dal 10 settembre. Assistendo all'anticipazione dell'Arena del Sole ne avevo già notizia e dicevo beh, aspettiamo l'avvicinarsi dell'evento, ma hai fatto bene ad anticiparlo. Grazie, a presto. A presto, e a te, buon lavoro. Ciao Emilio. Don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love and you is all of my thoughts are of you. For I'm so completely yours. C'è tutti i tempi di Cassandra Wilson, il sax soprano di Courtney Pine. Per uno standard, Billie Holiday, Don't Explain. Sperando di non avervi annoiato con il mio trasporto, i miei superlativi, ma quando trovo, non riesco a disattendere la mia onestà intellettuale, quando trovo particolarità che meritano questo approccio, certamente io non lesino con sincerità a quello che ho avuto modo da vicino di assistere. Quindi ribadisco gli appuntamenti per questo ultima parte, la terza parte, venerdì oggi 26, sabato 27, domenica 28 e tutti i giorni da venerdì 2 a domenica 18 agosto. 20 repliche, vi posso assicurare che è un lavorone. Inizio spettacolo alle ore 18, la conclusione, La montagna incantata di Thomas Mann, in occasione del centenario della pubblicazione del romanzo di Thomas Mann, e la terza parte che sarà al cimitero militare germanico del Passo della Futa. E stagione 2023-2024 in scena si conclude. Ho voluto fortemente concluderlo con il lavoro di Archivio Z, ho insistito per avere quest'ultimo approfondimento, perché poi apre anche la stagione prossima con quello che è l'inserimento nella programmazione di ERT Emilia Romagna Teatri. Curioso anche di vedere come puoi raccogliere tutto ciò, ma sono certo che sarà motivo di ulteriore fascino a un aspetto tratto dalle parti prese invece in rappresentazione a sé stante. Ovviamente, ma non c'è neanche bisogno di sottolinearlo, ma come, io non ho visto né l'uno né il due, no, non dimenticate tutto ciò. Grazie Enrica San Giovanni, grazie Gianluca Guidotti, Archivio Z, il progetto che vi ho appena presentato nella sua ultima parte. Conclude così la rubrica In Scena, stagione 2023-2024, ultima puntata. Onorato di averla portata con La Montagna Incantata di Thomas Mann e con Archivio Z. Noi ci sentiamo lunedì, martedì e mercoledì. Allora, lunedì un'estesa rassegna culturale dei magazine. Martedì un Mood Groove particolare con ospite in diretta Marco Dorici de Toddo per una sua iniziativa legata a Bologna e legata allo sport, quindi un Mood Groove atipico nella seconda parte. Nella prima parte daremo un compendio annuale di questa stagione e la famosa partitella di fine stagione per una stagione ricca anche per il Mood Groove. Mercoledì saranno i saluti, sì, io ci tengo, l'ultima puntata sarà dedicata a musica, saluti, e poi alla sera con Mini Express all'Open Deck. Aspetto tanti DJ per la conclusione del Breakfast Club, 12esima stagione, 23-24. Un buon weekend estate, un buon weekend per chi va al mare, ma anche per chi fa una gita e ovunque sia, un buon weekend dal Breakfast Club, un buon weekend d'estate, un buon weekend con i 103.1 di Radio Città Fujiko, il Breakfast Club puntualissimo alle 7 per queste ultime tre puntate, già da lunedì vi accoglierà per la prima colazione in diretta, tra poco Liberi Dentro, poi avremo la rassegna stampa su Radio Città Fujiko. Dal vostro William Piana un grazie per l'attenzione, anche se è estate, il caloroso abbraccio ve lo mando sempre e comunque, e vi do appuntamento a lunedì. Buon weekend, ciao a tutte, ciao a tutti.